Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Con gli arrivi di ieri ha superato ufficialmente quota 1 milione il numero di migranti e rifugiati entrati in Europa nel 2015. Il numero che Frontex aveva previsto preannunciando la crisi la scorsa primavera. Ora è un dato reale. Numeri, spiega l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, quadruplicate rispetto al 2014. Di questi, 455.000 erano in fuga dalla Siria, 186.000 dall'Afghanistan. Le vittime, quasi 3.700 persone in fuga da Africa e Medio Oriente, morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo solo quest'anno. L'immagine, insomma, della crisi migratoria che ha segnato in Europa l'anno che si sta chiudendo. E l'altra crisi che ha segnato questo 2015 e destinata però a non finire qui è quella ucraina. Tensione destinata a prolungarsi al prossimo anno dopo che ieri è arrivato il via libera formale del Consiglio europeo al prolungamento di 6 mesi delle sanzioni alla Russia sino al 31 luglio 2016. La decisione è pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale europea. Motivo, si legge, il fatto che ormai è evidente che gli accordi di Minsk non saranno pienamente attuati entro il 31 dicembre prossimo. E allora che significa per l'Europa e per l'Italia, tradotto anche qui in numeri? Secondo la Coldiretti, ad esempio, le esportazioni dei prodotti made in Italy verso la Russia sono crollate del 27,5% quest'anno per effetto dell'embargo russo adottato in risposta alle sanzioni europee. Il 9 dicembre scorso era stata l'Italia a bocciare il rinnovo automatico delle sanzioni. Alessandra Schepisi ha sentito Aldo Ferrari, responsabile Russia dell'ISPI. Il nostro paese non ha la forza di riuscire a cambiare l'inerzia dell'atteggiamento europeo sulla Russia, però ha dato un segnale importante, non ha potuto insistere proprio per la sua relativa debolezza, ha dato però un segnale importante anche perché l'aria sta cambiando all'interno dell'Unione Europea, il desiderio delle sanzioni è diminuito, c'è la consapevolezza che bisogna recuperare i rapporti con la Russia, tanto più che il fatto grave di questi ultimi giorni, vale a dire il progetto, l'avanzamento del progetto per Nord Stream 2, chiaramente in controtendenza con questa politica delle sanzioni. Il governo italiano ha assolutamente ragione, a mio giudizio, a indicare quanto assurdo sia andare su in un progetto energetico di questa rilevanza mentre si impongono sanzioni alla Russia. Al tempo stesso si collabora per un programma strategico di rifornimento energetico di queste dimensioni. È chiaro che la situazione attuale non può permanere e questo prolungamento delle sanzioni riflette, giusto o sbagliate che siano, riflette una situazione che nella realtà non c'è più. Ma parliamo anche di cinema europeo, anche qui tempo di bilanci. La grande bellezza, la migliore offerta, Never Lake e Fairy Tale sono i 4 film italiani che sono riusciti a guadagnarsi un posto nella top 100 dei film europei che nel 2014 hanno attirato più spettatori nei cinema dei paesi extraeuropei, stilata dall'Osservatorio dell'Audiovisivo del Consiglio d'Europa. A fare la parte del leone però i film francesi, soprattutto grazie all'enorme successo di Lucy, il film di Luc Besson. Per i francesi più spettatori in assoluto, 50% del totale, seguiti dai britannici 28% e dai tedeschi 7%. Vengono poi i film spagnoli con quasi 3 milioni di biglietti venduti, seguiti da belgi, italiani, russi e danesi a pari merito con 1 milione 300 mila spettatori, seguiti dai film finlandesi e irlandesi. Tornando agli italiani, il film di Paolo Sorrentino arriva in 26esima posizione, quello di Giuseppe Tornatore in 40esima, i semi sconosciuti in Italia Never Lake di Riccardo Paoletti e Fairy Tale di Ascanio Malgarini e Cristian Bisceglie sono a sorpresa il numero 80 e 94. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed Anna Migliorati, ancora una buona giornata. L'Europa, come sempre, vi aspetta questa sera con Europa Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.